Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Brevemente riprendiamo le fila della nostra lettura di ieri. Siamo a Mosca nel 1804. In uno dei salotti della capitale, quello della signorina Anna Pavlovna, si dà ricevimento. E l'argomento centrale è naturalmente politico e concerne principalmente la grande novità europea del momento, la figura di Napoleone. Anna Pavlovna lo considera una calamità, quasi un anticristo. Nel corso della serata vengono delineati alcuni dei personaggi del nostro romanzo. Il principe Vassili, cinico e volgare, sua figlia, la bellissima ma stupida Hélène, il fratello di lei, fatuo e mondano Hippolyte, il principe Andrei Balkonski e la sua giovanissima moglie, che è in attesa di un bambino. E infine Pierre Bezukhov, figlio naturale del vecchio conte Bezukhov, ormai moribondo. Si parla naturalmente della guerra imminente e si delineano le prime tensioni tra il principe Andrei e sua moglie, che detesta l'idea di restare confinata nella tenuta di campagna, come si delineano anche gli interessi personali. Il desiderio del principe Vassili di ottenere per il figlio il posto di primo segretario a Vienna, o le manovre della principessa Drubetskaya, che chiede al principe Vassili una raccomandazione per il figlio Boris. Si delinea anche l'amicizia tra Andrei e Pierre, i quali, dopo il ricevimento, si ritrovano assieme a casa del primo. Nella stanza accanto si udì il fruscio di una veste femminile. Come se si fosse destato, il principe Andrei trasalì e il suo viso prese la medesima espressione che aveva nel salotto di Anna Pavlovna. Pierre buttò giù le gambe dal divano ed entrò la principessa. E la portava già un altro abito, da casa questo, ma altrettanto elegante e nuovo. Il principe Andrei si alzò e le avvicinò cortesemente una poltrona. «Perché, penso spesso», ella cominciò a dire, parlando come sempre in francese e sedendosi frettolosa e affaccendata sulla poltrona, «perché Annette non si è maritata? Come siete stupidi tutti, messieurs, a non averla sposata? Perdonatemi, ma in fatto di donne non capite nulla. Come siete battagliero, messie Pierre? Anche con vostro marito discuto sempre. Non capisco perché voglia andare alla guerra», disse Pierre, rivolgendosi alla principessa senza alcuna soggezione. Soggezione così frequente nelle relazioni fra un uomo giovane e una giovane donna. La principessa si scosse. Si vedeva che le parole di Pierre l'avevano toccata sul vivo. «Ah, ne me parle pas de ce départ. Non mi parlate di questa partenza. Non ne voglio sentire parlare», prese a dire la principessa, con quel medesimo tono capriccioso e scherzoso col quale parlava nel salotto e che, evidentemente, era così fuor di posto in quella cerchia familiare di cui Pierre faceva quasi parte. «Stasera, quando ho pensato che bisogna interrompere tutte queste care relazioni, e poi, sai, André», e fece un ammicco significativo al marito, j'ai peur, ho paura», mormorò con un tremito nella schiena. Il marito la guardò come se fosse stupito di accorgersi che oltre a Pierre e a lui c'era qualcun altro nella stanza, e con fredda cortesia si rivolse alla moglie in tono interrogativo. «Di che hai paura, Lisa? Non capisco», disse. «Ecco, come tutti gli uomini sono egoisti, tutti, tutti egoisti. Per un suo capriccio, Dio sa perché, mi abbandona, mi confina sola in campagna. Con mio padre e mia sorella, non dimenticarlo», disse dolcemente il principe Andrei. «Sarò sola, egualmente, senza i miei amici. E vuole che non abbia paura». Il suo tono era già dispettoso. Il suo labbruzzo si rialzò, dando al viso non più un'espressione allegra, ma quella animalesca di uno scoiattolo. E la tacque, come se stimasse sconveniente parlare davanti a Pierre della sua gravidanza, poiché in ciò stava il nocciolo della questione. «Da un pezzo te lo volevo dire, André. Perché sei così cambiato con me? Che t'ho fatto? Te ne vai al campo. Non hai compassione di me. Perché mai?» Pierre, che durante questo dialogo era stato preso da un'agitazione sempre maggiore, si alzò e si avvicinò alla principessa. Pareva che non potesse sopportare la vista delle lacrime e anche lui fosse lì lì per piangere. «Calmatevi, principessa. Vi pare così, perché, vi assicuro, l'ho provato anch'io, perché... No, perdonatemi, un estraneo qui è di troppo. Arrivederci». Ma il principe Andrei lo fermò per il braccio. «No, no, resta, Pierre. La principessa è così buona che non vorrà privarmi del piacere di passare la serata con te». «No, pensa soltanto a sé», proferì la principessa, senza trattenere più le sue lacrime di rabbia. «Lise», disse seccamente il principe Andrei, alzando il tono fino a quel punto che mostra che la pazienza è esaurita. A un tratto, l'espressione di scoiattolo irritato che era sul bel visino della principessa si mutò in un'espressione di paura, che seduceva e ispirava pietà. Coi suoi begli occhi guardò di sotto in su il marito, e sul viso le comparve quella timida espressione di pentimento che ha il cane, quando agita rapidamente, ma debolmente, la coda abbassata. «Mon Dieu, mio Dio!» disse la principessa, e sollevando con la mano le pieghe del vestito, si avvicinò al marito e lo baciò in fronte. «Bonsoir, Lise», disse il principe Andrei, alzandosi e baciandole la mano cortesemente, come a un'estranea. I due amici tacevano. Nell'uno nell'altro cominciava a parlare. Pierre gettava delle occhiate al principe Andrei. Il principe Andrei si stropicciava la fronte con la sua piccola mano. «Andiamo a cena», disse egli con un sospiro, alzandosi e dirigendosi verso la porta. Entrarono nella elegante sala da pranzo, addobbata riccamente a nuovo. Tutto, dai tovaglioli all'argenteria, alle porcellane, ai cristalli, portava quella impronta speciale di nuovo che hanno gli oggetti nelle case dei giovani sposi. A metà della cena il principe Andrei posò i gomiti sulla tavola e, come un uomo che ha da un pezzo qualche cosa sul cuore e a un tratto si decide a spiegarsi, cominciò a dire, con un'espressione di irritazione nervosa che Pierre non aveva mai veduta al suo amico: «Non ti ammogliare mai, mai, caro amico. Eccoti il mio consiglio, non ti ammogliare. Finché tu non ti sia detto di aver fatto tutto ciò che potevi fare e finché tu non abbia cessato di amare la donna che hai scelta, finché tu non l'abbia veduta com'è, se no ti ingannerai crudelmente e irrimediabilmente. Ammogliati quando sarai un vecchio buono a nulla, se no tutto quello che c'è in te di buono e di alto sarà perduto, si sprecherà tutto in piccolezze». Pierre si tolse gli occhiali, per il che il suo viso mutò, esprimendo ancora maggiore bontà, e guardò meravigliato l'amico. «Mia moglie», continuò il principe Andrei, «è una donna eccellente. È una di quelle rare donne con le quali si può star tranquilli per il proprio onore. Ma, Dio mio, che cosa non darei ora per non essere ammogliato? Questo lo dico a te, primo e solo, perché ti voglio bene. Tu non capisci perché dico questo», seguitò. «Eppure in questo consiste tutta la storia della vita. Tu parli di Bonaparte e della sua carriera. Tu dici Bonaparte. Ma Bonaparte, quando lavorava, quando camminava a passo verso la meta, era libero, non aveva altro che la sua meta e l'ha raggiunta. Ma legati a una donna e come un forzato alla catena perderai ogni libertà». «Ha ragione mio padre. Egoismo, vanità, stupidità, nullaggine in ogni cosa. Ecco le donne quando si mostrano come sono. Se le guardi in società pare che in loro ci sia qualche cosa, invece nulla, nulla». «Sì, sì, non ti ammogliare. Anima mia, non ti ammogliare», terminò il principe Andrei. «Come può parlare così?» pensava Pierre. Pierre considerava il principe Andrei come il modello di ogni perfezione, appunto perché il principe Andrei riuniva in sé al più alto grado tutte le qualità che egli stesso non possedeva e che, con la maggiore approssimazione, si possono esprimere col concetto di forza di volontà. Pierre si meravigliava sempre della capacità del principe Andrei di trattare con piena disinvoltura ogni specie di gente, della sua straordinaria memoria, delle sue letture e particolarmente della sua attitudine al lavoro e allo studio. «Je suis un homme fini. Sono un uomo finito», disse il principe Andrei. «A che parlare di me?» «Parliamo di te», disse egli dopo un po' di silenzio, sorridendo ai suoi confortanti pensieri. Questo sorriso si rifletté nel medesimo istante sul volto di Pierre. «Ma che dire di me?» disse Pierre, allargando la bocca a un allegro, spensierato sorriso. «Chi sono io? Je suis un bâtard. Io sono un bastardo». E a un tratto diventò di porpora. Si vedeva che aveva fatto un grande sforzo per dir quello. «Senza nome, senza fortuna. Ebbene, davvero...» Ma non disse che cos'era davvero. «Sono libero per ora e mi trovo bene. Soltanto non so che cosa cominciare. Volevo consigliarmi seriamente con voi». Il principe Andrei lo guardò coi suoi occhi buoni, ma in quello sguardo, amichevole e accarezzante, appariva tutta la coscienza della sua superiorità. Tu mi sei caro, specialmente perché sei il solo uomo vivo in mezzo al nostro mondo. Tu stai bene. Scegli quello che vuoi, poco importa. Tu starai bene dappertutto, ma una cosa sola. Smetti di andare da quei Kuragin e di condurre questa vita. Non sono cose per te. Tutte quelle baldorie e quella vita da ussero. E tutto... che volete, mio caro? Disse Pierre, alzando le spalle. Le femme, mon cher. Le donne. Non capisco, rispose Andrei. Le donne come il fu? È un altro affare. Ma le femme di Kuragin. Le femme et les vins. Non lo capisco. Pierre abitava in casa del principe Vassili Kuragin e partecipava alla vita sregolata di suo figlio Anatol, quello stesso che, per correggerlo, si voleva sposare alla sorella del principe Andrei. «Sapete», disse Pierre, come se inaspettatamente gli fosse venuto un felice pensiero, «sul serio, ci pensavo da un pezzo. Facendo questa vita non posso né prendere una decisione né riflettere a nulla. Mi fa male il capo, non ho denari. Oggi mi ha invitato, non ci andrò». «Dammi la parola d'onore che non ci andrai. Parola d'onore!» Erano già le 2 di notte quando Pierre uscì dalla casa dell'amico. Era una notte di giugno, una di quelle notti chiare di Pietroburgo. Pierre montò in una vettura di piazza con l'intenzione di andare a casa. Ma più si avvicinava a casa, più sentiva l'impossibilità di prender sonno in quella notte che rassomigliava piuttosto a una sera o a un mattino. Si vedeva lontano, per le strade deserte. Per via, Pierre si rammentò che da Anatol Kuragin dovevano riunirsi quella notte i soliti compagni di gioco. Dopodiché avveniva per lo più un'orgia che terminava con uno degli spassi favoriti di Pierre. «Sarebbe bello andare da Kuragin», pensò. Ma si ricordò tosto della parola d'onore data al principe Andrei di non andare da Kuragin. Subito però, come accade alla gente cosiddetta senza carattere, gli venne una tale voglia matta di sperimentare ancora una volta quella vita depravata a lui così nota che decise di andare. Giunto all'entrata di una grande casa, presso la caserma delle guardie a cavallo nella quale abitava Anatol, egli salì i gradini illuminati dell'atrio, poi la scala interna e varcò una porta aperta. Nell'anticamera non c'era nessuno. Erano sparsi qua e là mantelli, soprascarpe e bottiglie vuote. Si sentiva odore di vino e si udivano voci e grida lontane. Pierre si trova ora in mezzo a una brigata di amici assai alticci. Tra questi è Dolokhov. Dolokhov era un uomo di mezza statura, ricciuto e con occhi celesti, luminosi. Aveva circa 25 anni. Non portava baffi, come tutti gli ufficiali di fanteria, e la sua bocca, che era il tratto più notevole del suo viso, era tutta scoperta. La linea di questa bocca aveva una straordinaria finezza di curve. Nel mezzo, il labbro superiore ricadeva energicamente sul vigoroso labbro inferiore, con un intaglio aguzzo, e agli angoli si disegnava sempre qualcosa come un duplice sorriso, un sorriso da ognuna delle parti, e tutto l'insieme, specialmente unito allo sguardo fermo, sfrontato, intelligente, faceva una tale impressione che era impossibile non notare quel viso. Dolokhov non era ricco e mancava assolutamente di amicizie influenti. E sebbene Anatol spendesse decine di migliaia di rubli all'anno, Dolokhov abitava con lui e riusciva a condurre un tal tenore di vita che Anatol e tutti quelli che li conoscevano facevano più conto di Dolokhov che di Anatol. Dolokhov giocava a tutti i giochi e quasi sempre vinceva. Per quanto bevesse, non perdeva mai la lucidezza di mente. Il principe Vassili mantenne la promessa data alla serata di Anna Pavlovna alla principessa Drubetskaya, che s'era raccomandata a lui per il suo unico figlio Boris. Fu parlato di lui all'imperatore ed egli fu eccezionalmente trasferito nella guardia come alfiere del reggimento Semyonovsky. Ma malgrado tutte le sollecitazioni e le premure di Anna Mikhailovna, Boris non fu né nominato aiutante di Kutuzov né addetto alla sua persona. Poco dopo la serata di Anna Pavlovna, Anna Mikhailovna tornò a Mosca e andò direttamente dai suoi ricchi parenti Rostov, presso i quali abitava a Mosca e dove era stato sin dall'infanzia educato e aveva vissuto per anni il suo adorato Borenka, da poco nominato alfiere di fanteria e ora passato nella guardia. Dai Rostov si festeggiava l'onomastico di due natalie, la madre e la figlia minore. Fin dalla mattina andavano e venivano di continuo le carrozze che portavano i visitatori alla grande casa della contessa Rostova, situata in via Povarskaya e conosciuta da tutta Mosca. La contessa e la sua bella figlia maggiore sedevano in salotto coi visitatori che si susseguivano senza interruzione. La contessa era una donna sui 45 anni, con un viso magro dal tipo orientale e visibilmente sfinita dalle troppe maternità, avendo avuto 12 figlioli. La lentezza dei movimenti e della parola, che proveniva dalla debolezza della sua persona, le conferiva un'aria di importanza che ispirava rispetto. La principessa Anna Mikhailovna Drubetskaya, come persona di famiglia, stava lì anche lei, aiutando a ricevere e a intrattenere gli ospiti. La gioventù era nelle stanze interne, non trovando necessario prendere parte al ricevimento dei visitatori. Il conte andava incontro agli ospiti e li riaccompagnava, invitando tutti a pranzo. La contessa guardava la visitatrice, sorridendo amabilmente, ma senza nascondere che non si sarebbe punto afflitta se ella si fosse alzata e se ne fosse andata. La figlia della signora già si accomodava il vestito, guardando interrogativamente la madre, quando a un tratto dalla stanza accanto si sentì un correre verso la porta di piedi maschili e femminili, il rumore di una sedia urtata e rovesciata, e nel salotto entrò di corsa una fanciulla di 13 anni, nascondendo qualcosa nella corta gonna di mussolina, e si fermò in mezzo alla stanza. Si vedeva che era giunta fin là inavvertitamente, non avendo misurato lo slancio. Sulla soglia, in quello stesso momento, comparvero uno studente col colletto color lampone, un ufficiale della guardia, una fanciulla di 15 anni e un ragazzetto grosso e colorito in una giacchettina infantile. Il conte si alzò di scatto e, dondolandosi, aprì largamente le braccia per racchiudervi la fanciulla che correva. «Ah, eccola!» gridò ridendo. «La festeggiata, la mia cara festeggiata!» Con gli occhi neri, con una gran bocca, non bella ma vivace, con le sue spallucce di bambina scoperte che, stringendosi, si muovevano entro la camicetta per effetto della rapida corsa, coi riccioli neri gettati indietro, le sottili braccia nude, le gambette serrate nei calzoncini guarniti di merletti e i piedi nelle scarpette scollate, la fanciulla era in quella graziosa età quando la giovinetta non è già più una bambina e la bambina non è ancora una giovinetta. Sfuggendo al padre, corse alla madre e, senza punto badare alla sua osservazione severa, nascose il viso diventato di fuoco nei merletti della mantiglia materna e si mise a ridere. Rideva di qualche cosa, parlando a scatti della sua bambola che cavò di sotto alla gonna. Natascia cadde addosso alla madre e scoppiò a ridere così forte e così sonoramente che tutti, anche la signora altezzosa, cominciarono a ridere contro la loro volontà. «Vattene! Vattene col tuo mostro!» disse la madre, respingendo la figlia con finta irritazione. «È la mia ultima», disse, rivolgendosi alla signora. Natascia, togliendo per un momento il viso dalla sciarpa di merletto della madre, guardò la signora di sotto in su, attraverso le lacrime del riso, e di nuovo nascose la faccia. Intanto, tutta quella gioventù, Boris, l'ufficiale, figlio della principessa Anna Mikhailovna, Nikolai, lo studente, che era il figlio maggiore del conte, Sonia, la nipote quindicenne del conte, e il piccolo Petia, il figlio minore, tutti s'erano sparsi nel salotto e si vedeva che si sforzavano di trattenere nei limiti dell'educazione la vivacità e l'allegria che ancora spiravano da tutti i loro tratti. Si capiva che di là, nelle stanze interne, di dove erano accorsi con tanta precipitazione, stavano facendo discorsi più allegri che qui, dove si parlava dei pettegolezzi della città, del tempo e della Comtesse Apraxin. Di tanto in tanto si guardavano l'un l'altro e stentavano a trattenere il riso. I due giovani, lo studente e l'ufficiale, amici d'infanzia, erano della stessa età, belli tutti e due, senza però somigliarsi. Boris era un giovane alto, biondo, con un viso calmo e bello, dai tratti fini e regolari. Nikolai era un giovane ricciuto, di non alta statura, con un'espressione aperta sul viso. Sul suo labbro superiore già appariva una peluria nera e tutto il suo viso esprimeva l'impetuosità e l'entusiasmo. Sonia era una brunetta sottile che pareva una miniatura, con uno sguardo dolce, ombreggiato da lunghe ciglia, una folta treccia nera girata due volte intorno al capo e la pelle un po' giallognola nel viso e specialmente nelle braccia e nel collo nudi, magri ma pieni di grazia e muscolosi. Per l'armonia dei movimenti, per la dolcezza e la flessuosità delle piccole membra e per i suoi modi alquanto astuti e riservati, ella ricordava una bella gattina, non ancora formata, ma che ha da diventare una magnifica gatta. Di certo doveva credere che fosse conveniente mostrare col suo sorriso che prendeva parte alla conversazione generale, ma involontariamente i suoi occhi di sotto alle lunghe e folte ciglia guardavano il cousin, che doveva andare a raggiungere l'esercito con una tale fanciullesca, appassionata adorazione, che il suo sorriso non poteva neppur per un istante ingannare alcuno, ed era chiaro che la gattina s'era seduta soltanto per saltar su ancora più vivacemente e mettersi a giocare col cugino, appena essi, come Boris e Natasha, se la fossero svignata dal salotto. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it